already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. One, two, three. My name is Sarah Palin. You all know me. Vice President nominee of the GOP. Gonna need your vote in the next election. Can I get a what from the senior section? McCain got experience. McCain got style. But don't let him freak you out when he tries to smile. Cause that smile be creepy. But when I'm VP, all the leaders in the world. Magari vi chiedete che cosa fanno i politici, tanto più se candidati alla Casa Bianca durante il weekend. Bene, fanno un po' di tutti i colori, ce n'è perfino una di fresca nomina, una apparsa all'orizzonte da poco, che si chiama Sarah Palin, che di sabato sera, invece di stare a casa con la sua numerosa famiglia, se ne va al Saturday Night Live, lo show comico, brillante, più divertente d'America, prediletto dai giovani, e finisce tra Alec Baldwin, Amy Poehler, che è quella che sta rappando sullo sfondo, un rap con le alci morte, sparano le alci tra un po', sentite, finisce a ballare in seconda serata sulla televisione americana, tra l'altro a ballare pure bene. Nel frattempo sono arrivati gli Eskimo, è arrivato anche un sosia di suo marito, vestito naturalmente da motoslip. Sentite come sparano. Perché ci sono le alci, la canzone, il rap che gli ha dedicato Amy Poehler, dice gli piace mangiare carne di alci, pum pum pum pum pum. E lei è stata allo scherzo, del resto, per rimediare qualche voto di questi tempi a 15 giorni dalle presidenziali americane, altro che Saturday Night Live, se ne fanno di tutti i colori. E alla fine ha salutato prendendosi in giro da sola, pare che a fine show si siano poi abbracciate con Tina Fey, questa attrice, questa comica americana che ormai la imita a tutte le ore del giorno e della notte e che è diventata popolare quanto Sarah Palin. E Sarah si è presa in giro anche da sola, ha cominciato a parlare lo slang americano dell'America profonda, no, a dire you betcha, sentite. You betcha. Do we get up there? I'm Seth Meyers. I'm Sarah Palin. Good night and have a pleasant tomorrow. Good night. Ha fatto l'annunciatrice, ha fatto una gag con Alec Baldwin che faceva finta di parlare con la sua imitatrice, invece era la vera Sarah Palin. Tutto molto divertente. So che alcuni di voi hanno visto anche lo show di McCain, la predizione di McCain al Letterman Show. Qualcun altro, sicuramente, anzi forse la maggioranza, penseranno: ma che sta succedendo? Ormai vanno solo in televisione a far ridere, ma ne abbiamo anche altre di perle di questo genere. Tra qualche istante Giancarlo da Varese scrive: ho visto McCain da Letterman, un candidato alla presidenza che va al Late Show e ammette in diretta I screw up, ha detto, ho toppato, ho sbagliato, mi sono incasinato. Indica la pochezza del candidato stesso o la grandezza del conduttore? Ma secondo me in questo caso indica la grandezza del candidato, perché è stato molto divertente, per quanto mi riguarda più brillante che nei dibattiti. Poi c'è stato venerdì sera questo grande pranzo di beneficenza all'Al Smith Dinner a New York City, tutti in altissima uniforme, in frac, con i loro giacchettoni, Obama in frac, McCain, hanno fatto dei discorsi che i loro speechwriter hanno messo sul tono ironico, si sono scambiati battute molto divertenti. McCain ha detto: ma guardate, sapete, ho licenziato tutto lo staff perché adesso della mia campagna si occupa completamente Joe the Plumber, Joe l'idraulico, anzi già che ci sono gli sta dando anche una sistemata alle tubature di casa. Poi ha detto ancora beh, sappiamo che la stampa americana è veramente indipendente, è veramente non partigiana, è veramente come la Acorn. E poi ancora la crisi delle case, secondo Barack Obama, ha colpito duramente soprattutto un certo signor John McCain, che ne avrebbe 8 per l'appunto. Poi ha dato la traduzione in Swahili del nome Barack, ha detto: guardate che Barack in inglese, come ci ha indicato giustamente John McCain, si traduce that one, quello lì. Poi ha detto: non si chiama Hussein di secondo nome. Ha detto: no, io ho sempre scherzato, ma quale Barack Hussein Obama? Io mi chiamo Steve. Questa ci piace molto. Sentiamo Barack. Rudy Giuliani, that's one for you. I mean, se la prende con Rudy Giuliani, dice: questa è per te. Who would have thought that a cross-dressing mayor from New York City would have a tough time winning the Republican nomination? Cioè, ma come è stato mai possibile che un sindaco di New York a cui piace vestirsi da donna abbia potuto perdere la nomination repubblicana? Caro John McCain, deve essere stata una battaglia durissima con il tuo avversario travestito. Insomma, è stata una serata allegra anche da quelle parti. Poi nella domenica c'è stato il bagno di folla per Barack Obama, 100.000 persone a St. Louis, Missouri, sotto il grande arco, simbolo della città, anzi 90.000 dentro e 10.000 fuori, ha precisato il capo della polizia, per sentir parlare un Obama trionfale, i cui indici si sono raddrizzati dopo un lieve guadagno di McCain. Adesso si riparla più o meno concordemente di circa 6 punti sul piano nazionale, ma soprattutto dei famosi stati chiave che ormai pendono decisamente dalla parte sua. Come to think of it, John, I swear I saw you at one of our meetings. Eccolo che continua a far ridere il suo pubblico. Poi i quattrini, una questione importante. Un altro record per Barack Obama, che non solo ha totalizzato 55 giornali, 55 quotidiani che lo sostengono, lo sponsorizzano ufficialmente, ma ha messo in cassa con la sua raccolta a botte di 5, 10, 15, 100 dollari, 150 milioni di dollari nel solo mese di settembre. Cominciano forse ad avere i loro motivi quelli che dicono: ma siamo sicuri di spendere tutti questi soldi in spot elettorali? E poi altri supporti di grandissimo peso sono arrivati a soccorrere la sua campagna elettorale, che sembra ormai veramente sulla strada così del successo. Ma di questo ne parliamo tra qualche istante, perché per descrivere la discesa in campo di Colin Powell forse vale la pena ragionarci un po'. Time. l'album di Stephanie McKay, il primo brano in programmazione a Jefferson Ming questa settimana. Ci piace particolarmente, questa si chiama Kinky. Ma a proposito di nuove celebrità, prima di arrivare alla vecchia, solida celebrità di Colin Powell, parliamo ancora un momento di Joe l'idraulico, il personaggio di ottobre di queste elezioni. Non a caso Rollins su CNN, un noto editorialista di CNN, ha scritto un articolo intitolato Joe l'idraulico contro Colin Powell, come dire, ma forse stanno giocando su due tavoli diversi. You just were sort of at home and sitting around and you heard Obama was showing up in your neighborhood. What happened there? No, actually, my son and I were just out in the street tossing football. You know, the Bengals weren't doing very good, and so, you know. Questa è la voce educata e suadente di Joe the Plumber, Joe l'idraulico, il personaggio mandato in orbita dall'ultimo dibattito presidenziale tra McCain e Obama. L'hanno citato 26 volte, l'hanno identificato con il vero americano medio. Poi ci si è resi conto che non si chiama neanche Joe, si chiama Samuel. È un idraulico, ma con qualche problemino, non ha la licenza, non ha ancora una società sua, come sosteneva parlando con Barack Obama. Qui racconta il suo incontro con Obama, lo fa anche con molta discrezione, con molta educazione. Indovinate a chi? Niente meno che a Mike Huckabee, che è stato poi a lungo il terzo incomodo della campagna elettorale repubblicana. Ricordate, Mitt Romney si opponeva a McCain fieramente, ma Mike Huckabee era in buona terza posizione. E sapete com'è finito? È finito che ha un suo bello show adesso in televisione su Fox News, sulla rete informativa di orientamento conservatore. Tra l'altro è anche molto bravo e molto spiritoso, e si è accaparrato Joe the Plumber, l'idraulico Joe di Toledo, Ohio, per una intera trasmissione. Lo ha usato un po' come opinionista, come cartina tornasole degli umori americani. Secondo me Joe the Plumber è anche un elettore, sarebbe stato un elettore di Mike Huckabee. Comunque è stato molto brillante, e ormai si parla apertamente di una prossima candidatura di Joe Wurzelbacher, Joe the Plumber, alle prime elezioni raggiungibili. Ma invece, quando è uscito dagli studi televisivi di Meet the Press, dove aveva appena ufficializzato la notizia e ha detto guardate mi devo sbrigare, devo prendere un aereo, ma l'ha detto anche con la dolcezza, con il tocco che ha sempre avuto Colin Powell, e ha spiegato ai reporter di aver scelto e di voler ufficializzare la propria scelta, lui repubblicano, per un democratico per la Casa Bianca 2008, Colin Powell ha fatto veramente un gran rumore in America, prima di tutto perché è una personalità, direi, universalmente, trasversalmente stimata, apprezzata, amata, poi perché ha saputo motivare con una intensità e si direbbe anche con una certa sincerità di slancio la propria scelta. Ascoltate. I think that Senator Obama brings a fresh set of eyes, fresh set of ideas to the table. I think that Senator McCain is gifted as he is. Dice, io credo che il senatore Obama stia portando veramente uno sguardo nuovo e un sistema di idee nuove al tavolo della politica americana. Io credo che il senatore McCain, per quanto sia dotato politicamente, vada comunque a inserirsi nel solco dell'agenda repubblicana, quella ortodossia dell'agenda repubblicana, a cui darebbe tutto al più una faccia nuova e il suo tipico approccio da Maverick, cosa che sa fare anche molto bene. Ma io credo che noi, che l'America in questo momento abbia bisogno più di tutto ciò, io credo che noi abbiamo bisogno di un ricambio generazionale, su questo concetto che Powell ha insistito particolarmente, e ha detto ancora, e io credo che il senatore Obama abbia catturato i sentimenti dei giovani americani e si sia dimostrato capace di raggiungere i loro cuori in un modo diverso e coinvolgente e in tutti gli strati sociali della nostra società. Per questo momento, per questo motivo, credo che sia giusto, in occasione delle votazioni 2008, dare a Barack Obama il mio personale ma ufficiale sostegno in vista delle presidenziali. 71 anni, così ha parlato Colin Powell, l'uomo di Desert Storm nel 1991, la prima guerra in Iraq, l'ex segretario di Stato di George W. Bush, colui che fu responsabile in prima persona del celebre rapporto all'ONU, alle Nazioni Unite, in cui si denunciavano le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, un punto sul quale Powell non chiede neanche scusa, ma chiede che vengano comprese le sue motivazioni, perché lui continua a essere convinto che la guerra fosse giusta, che fosse corretto attaccare l'Iraq, ma oggi dice anche che sarebbe stato giusto farlo dando delle motivazioni esatte e non delle motivazioni che poi si sarebbero rivelate fallaci. Nel 2004 Powell è stato sostituito da Condoleezza Rice ed è da quel momento diventato una specie di eterno candidato annunciato un po' a tutto, no? Lo hanno annunciato naturalmente anche come possibile candidato alla presidenza, come indipendente, come responsabile di attività internazionali di vario genere. È il vero conservatore illuminato, il garante della democrazia americana, ma anche colui che crede profondamente nella diplomazia, nella forza della diplomazia. Tra l'altro Barack Obama si è detto entusiasta del sostegno di Colin Powell, e non ha nascosto l'intenzione di affidargli un compito di rilievo e ufficiale all'interno della sua amministrazione. Rush Limbaugh, il famoso conduttore radiofonico di destra, conservatore, una delle voci radiofoniche più amate d'America, ha insinuato che Colin Powell abbia appoggiato Obama esclusivamente per solidarietà di razza. Powell dice che la razza non c'entra, ha detto Limbaugh, e io sto cercando, tra gli altri a cui ha dato il suo endorsement, un candidato bianco altrettanto liberal e altrettanto privo di esperienza. Se lo trovo ve lo dico, la solita tipica provocazione di Limbaugh. Invece John McCain è stato più sportivo, ha detto tutto sommato me lo aspettavo, in fondo ho altri segretari di Stato che mi sostengono, continua a restare immutata la mia stima nei confronti di Powell, i due si conoscono e si stimano da anni. Obama si è detto più che onorato, sono stato onorato di aver ricevuto di tanto in tanto il beneficio della sua saggezza, ma oggi sono più che onorato di avere l'appoggio del generale Powell. Ben Bernanke oggi testimonia al congresso, spiega al congresso che Sarebbe opportuno trovare la forza di produrre questo nuovo pacchetto che stimoli l'economia americana, che ne provochi la scintilla, no? per ripartire. Al tempo stesso in televisione si discute sempre di soldi, dei 150 milioni raccolti da Obama in un solo mese. C'è Meghan, che noi tutti amiamo e veneriamo, che sta conducendo un talk show attorno al fatto se insomma esista un limite etico alle centinaia di milioni raccolte in un mese, magari da spendere in spot televisivi. Ma su questo torneremo, perché adesso dobbiamo salire molto molto molto molto in alto, dobbiamo salire fino ai 1200 metri, avete sentito bene, 1200 metri del nuovo grattacielo più alto del mondo. Ancora un progetto, ma sembra anche qualcosa di più. In realtà si chiamerà Bionic Tower. Sorgerà naturalmente, scusate se lo dico, a Shanghai, 300 piani, 10 miliardi di dollari di costi. Uno studio di architettura spagnolo guidato da Javier Pioz, che dice: cerchiamo nuovi modi per conquistare spazi verticali, più di 200 metri di fondamenta per assorbire le vibrazioni terrestre, finestre sempre chiuse e blindate, ma qualche spazietto, qualche corridoio dove respirare un po' d'aria fresca. 15 anni per finirlo, ma si entra subito, non appena sarà concluso il primo blocco di questo spaventoso edificio destinato a ospitare, udite udite, 100.000 persone. Allora noi ne abbiamo convocate almeno due, perché ci sembrava necessario avere diversità di punti di osservazione su una creatura così mostruosa. Il primo naturalmente è Saro Capozzoli, il nostro amico consulente, voce da Shanghai, che spero non abiti sotto il Bionic Tower, se no mi sa che la luce del sole se l'è giocata, vero Saro? Beh, sì. Certamente sì, ma sono lontano da lì, almeno 2 chilometri da quel punto. Senti un po', ma spiegaci una cosa, Saro, soprattutto, perché secondo te questa creatura, chiamiamola così, viene su proprio a Shanghai, e con quale spirito viene sia progettata che accolta? Ma è la città più che ha usato di più in questi anni. Ovviamente gli sta contendendo il primato anche Dubai, no? Con quello che sta succedendo anche lì, se stanno facendo dei grandi numeri. E qui c'è stato un periodo negli anni 90 dove si completava un piano di un grattacieli, sto dicendo, no? Ogni 20 minuti, non sto scherzando, cioè un piano di 20 minuti veniva completato. E infatti adesso ci sono circa 8.700, chiamiamoli grattacieli, no? Sono palazzi alti più di 24 metri, di cui di quelli che sono alti più di 100 metri sono circa 400. Quindi questi sono i numeri di cos'è. Abbiamo dei problemi di ricezione, Saro, aspetta, sistemiamo la linea. Intanto chiamiamo in causa Luca Molinari, un altro amico del nostro programma, architetto, critico, professore di teoria della progettazione architettonica a Napoli, autore tra l'altro dello yearbook della Schira dell'architettura mondiale 2007-2008. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno. Senti, ma insomma un palazzo da 100.000 persone, ma che succede in uno studio di architettura quando si comincia così ad annusare, a girare intorno a un progetto di questo genere? Non c'è nessuno che si spaventa, non si spaventano mai? Beh, innanzitutto festeggiano, penso. Certo. No, diciamo queste grandi opere sono affidate tendenzialmente a pochi studi di architettura, soprattutto americani, che hanno base in Cina, Hong Kong, a Singapore, e che sono strutturate con strutture da 200-300 persone, per cui è impressionante, sono delle vere macchine da produzione architettonica. Tu che idea ti fai, cioè che giudizio dai di di uno sforzo così, che naturalmente sfocia nel gigantismo come questo? E poi soprattutto, ma davvero, adesso Towering Inferno, no, per carità, ma non è un progetto che va al di là delle necessità e dei bisogni, forse anche delle opportunità umane, non so come dire. Io credo di sì, è impressionante questa cosa. Pensa che negli anni 70 c'era il mito di Godzilla, che è questo grande mostro che usciva dal mare, suggeriva i primi grattacieli giapponesi, ed era l'idea che la natura si ribellasse contro il mondo artificiale dell'architettura, e c'era allora il mito delle megastrutture, no? Questi grandi edifici che potevano tenere migliaia e migliaia di persone. Poi dopo 20-30 anni questa idea è ritornata, questa cosa di edifici che contengono diverse centinaia di migliaia di persone sta sviluppandosi anche a Bangkok, a Singapore, e sono degli edifici, a volte sono come dei grattacieli orizzontali, lunghi anche 300-400 metri, alti 30 piani, dove appunto vivono 25-30 mila persone, è una cosa i giardini pensili, le piscine, gli asili al 30° piano, ed è un modo per accorpare i costi e per accumulare gli investimenti, diciamo così. Però è sicuramente terrificante, contro ogni logica possibile. Luca, arriva un messaggio molto divertente dai nostri ascoltatori, per la fattispecie da Davide di Como, che chiede: ma come fanno coi citofoni? è un problema reale. Ma sai che distribuiscono delle cartine, ci sono le mappe, cioè ogni corridoio, ogni piano ha un colore diverso, sono dei mondi, sono delle città mondo, sono veramente impressionanti. E poi non vengono abbandonati, sono intensamente abitati, per cui hai questi giardini con palme al 25° piano, poi hai una piscina, un centro commerciale al 30-40°, è veramente un mondo. Resta in ascolto, perché torniamo da Saro, da Shanghai. Saro, abbiamo credo rimesso in piedi la linea, ma sì. Dicevamo, come è accolta un prodotto di questo genere dalla città, dall'ambiente, insomma? Ma io penso che dobbiamo fare un po' i conti con i numeri che ci sono qua, non sono solo i numeri di grandi piani, eccetera, ma anche la popolazione. Se pensiamo che adesso Shanghai conta qualcosa come 18 milioni di persone, considerando anche gli immigrati, un po' tutte le persone che non sono registrate, e ha un'estensione di 65 chilometri di lunghezza, cioè circa 6.500 chilometri quadrati di superficie occupata dalla città più le sue periferie. E fra 20-30 anni si stima che questa popolazione dovrà raddoppiare, da qualche parte dovranno mettere queste persone. Loro hanno appunto sposato appunto la pratica di portare le persone in altezza, ma anche in profondità, perché si parla anche di città che vanno anche molto sottoterra. Certo. E questo sarà sempre di più in Asia, specialmente in quest'area. Adesso si sta pensando alla grande metropoli, noi stiamo pensando a Milano, Monza, la grande metropoli, qui stiamo pensando alla grande metropoli a Shanghai, Hangzhou, Nanchino, cioè Suzhou, che sono città che distano 100-150, 200 chilometri da Shanghai. Quindi c'è proprio un'esigenza, quella di concentrare e di posizionare in verticale le persone, dato che se si dovesse estendere questa massa di persone, di attività in orizzontale, ci vorrebbe metà Cina. Ecco, questo è un po' il motivo per cui c'è questa esigenza, che più che altro che è un qualcosa di, diciamo, così. Ecco, torniamo un attimo, aspetta Saro, torniamo un attimo a Luca Molinari per indagare un secondo questo concetto della verticalità, che è uno dei temi ricorrenti. Il tema del non consumare il territorio dal punto di vista urbano fa tornare una pratica che è quella della densificazione, cioè, questo è un tema molto importante, è un tema che collega demografia, ecologia, investimenti economici e politica. Ha perfettamente ragione chi sta parlando da Shanghai. Scusate, parlando della pressione demografica e quindi della necessità di salire, perché sennò si consumerebbe troppo territorio. Questo è un problema vero, e l'architettura, o chi si occupa di sperimentazione sulla città, sta parlando sempre di più di termini come densificazione, sovrapposizione, aumentare l'altezza degli edifici, e garantire che non si consumi troppo territorio, questo non c'è dubbio. Al tempo stesso un progetto di questo genere in che fascia, ma non riesco neanche a dirlo, come si colloca all'interno di un sistema sociale? È comunque un oggetto abitativo riservato alla fascia altissima e alle attività imprenditoriali, o con 100.000 persone che ci possono andare a vivere addirittura può rispecchiare una società al suo interno? Come funziona? Questa è una bella domanda. Si potrebbero prospettare degli edifici che diventano, come dire, degli strati di torte diverse che comportano servizi e qualità dell'abitato differente. Arriveremo anche a quello, ma già in qualche modo altri progetti fatti a scala totalmente minore in Olanda o in Francia prospettavano questa cosa, cioè che nello stesso edificio si avessero qualità di abitato e dell'habitat proprio generale totalmente diversi. Un micromondo, andiamo verso Blade Runner. Grazie Luca Molinari. Vi ricordo ancora, in uscita in questi giorni, The Skira Yearbook of World Architecture 2007-2008 a cura di Luca Consaro. Ci sentiamo ancora tra pochi istanti. Intanto però mi sembra che gli umoristi fra i nostri ascoltatori stiano arrivando a frotte. Complimenti, perché Jack ci chiede riguardo al nostro palazzo di 1200 metri, 100.000 persone, come fanno i postini. E poi c'è anche Leo da Livorno, così un po' apocalittico, dice: ma sull'ascensore ci piazzeranno i nostri assistenti di volo in esubero? Give me the green light, give me just one night, I'm ready to go right now, I'm ready to go right now. Checking your smile, working your back like it's going out of style. Shake just a little bit faster, shake just a little now, girl. I'm dying to meet you, so let's mess around. Got an obsession with us getting down. Come just a little bit closer, I just need permission, so give me the green light, give me just one. Eccoci tornati a parlare della Bionic Tower, ma soprattutto di che cosa frulla in testa agli investitori, anche agli urbanisti cinesi, di Shanghai in particolare, mettendo in piedi un progetto di questo genere. Emiliano Enrico mi ha raggiunto in studio e abbiamo sempre Saro in linea. Eccoci Saro. Sì, salve. Insomma, stavamo discutendo, no, delle volontà, ma anche un po' dei propositi che una città come Shanghai può deporre all'interno di una costruzione straordinaria, ma al tempo stesso folle come questa. Beh, qui sì, folle, però sta nella logica delle loro cose, ecco. Loro immaginano una città verticale, ma nel senso, vero senso della parola. Cioè, quello che io ho sentito appunto nelle varie presentazioni di questo progetto è che si immagina una città fatta di tanti di questi funghi, praticamente sarà una forma di goccia, su dei prati, delle zone che sono tutte dei grandi prati, con la città che è dentro queste gocce, protetta quindi dall'inquinamento, eccetera, con interscambi di metropolitane sotterranee anche ai vari livelli, no, che, di collegamento, una specie di, diciamo, di... Beh, ci stai dipingendo il futuro, complimenti, perché adesso cominciamo a visualizzarlo. Ma è qualcosa che sta nella loro, diciamo, l'ordine. Infatti loro quello che stanno facendo adesso stanno quello di eliminando ciò che è vecchio, perché loro ciò che è vecchio dicono quello che per noi, diciamo, è tesoro. Loro eliminano perché dicono, perché dobbiamo costringerci a vivere in case che sono state disegnate centinaia di anni fa, che non sono fatte per l'uomo moderno, e quindi spendere anche di più nella manutenzione, eccetera. Facciamo, raggiungiamo tutto al sole, facciamo tutto nuovo. Gli americani per questa strada, adesso poi invece hanno inventato i movimenti conservazionisti, insomma, hanno capito che non ma tutto... Gli americani avevano praticamente le praterie, qui avevano già case costruite da centinaia di anni. Io, diciamo che nella loro mentalità è il cercare, non è tanto una corsa verso un confronto verso gli Stati Uniti, che anche se si può immaginare questo, ma è anche un modo di appunto razionalizzare quello che sta succedendo e di progettare il futuro, per quello che fanno i cinesi, cosa che non facciamo, i progettano e programmano. Infatti io, se si viene a Shanghai, si va nella People Square, la città del la piazza del popolo, c'è la mappa blu, che è una mappa fatta a mo' di plastico, che si estende su quattro piani, e si vede la città cosa sarà fra 20 anni, 30 anni. Ecco, loro pianificano quello, tutto quello che c'è da fare. Questo è un po' la differenza di mentalità. Saro, una curiosità, in questo momento a che piano sei, visto che stai parlando da Shanghai, che di solito è così alta? No, in questo momento sono a casa mia, al terzo piano. Terzo piano, quindi sei basso. No, io confesso un po' di disagio, perché io ho un po' di paura dell'altezza, quindi se abitassi ai piani alti forse non uscirei più di casa dalla paura di fare tutta quella lunga discesa. Però Saro, vogliamo approfittare della tua presenza in diretta da Shanghai anche per anticipare quello che forse, tolta l'elezione americana, è il grande evento di questa settimana di Jefferson Lung. Le avventure di Saro. Perché c'è un grande incontro che farai con altri imprenditori tra pochissimi giorni a Pechino, però lascio a te naturalmente autopresentare questo appuntamento. Credo sia giovedì, no? Se non sbaglio. Sì, giovedì siamo stati invitati, io con altri imprenditori, ad andare a Pechino. Infatti sono a Shanghai, mi devo recare a Pechino, proprio per un incontro che viene fatto, diciamo, non dico periodicamente, ma ogni tanto arrivano appunto delle personalità dall'Italia. Infatti sarà presente l'onorevole Silvio Berlusconi a Pechino in occasione di un incontro dell'ASEM, un incontro, diciamo, un vertice ASEM, un settimo incontro, e quindi sarà presente, ci sarà appunto un incontro con gli imprenditori, con diciamo la cittadinanza attiva e di business qui in Cina. Quindi Saro, vai a incontrare il Presidente del Consiglio, non è la prima volta che incontri Berlusconi, perché già anni fa era venuto in Cina e ti eri avvicinato a lui, no? Sì, mi è successo il 1 novembre del 2003, è venuto a Shanghai e abbiamo avuto appunto l'occasione anche di parlare, di poterci appunto esprimere, abbiamo avuto modo anche io stesso di parlare, di poter esprimere alcune opinioni. Ecco, quale sarà il tuo messaggio a Berlusconi in questa occasione, Saro? Che gli vuoi dire? Ma in questo momento qui andrò ad ascoltare, come tutti gli altri, forse ci sarà l'opportunità di parlare, probabilmente a seconda di quello che si dirà parleremo, ecco. Certamente uno dei temi sarà all'Italia, perché è un percorso molto scottante qua, perché siamo praticamente scollegati dall'Italia, non dall'Europa ma dall'Italia. Probabilmente altri temi saranno anche un po' l'attenzione che si può porre verso il paese, che già è un paese difficile dove operare, perché non dimentichiamoci che è un paese dove una base produttiva, ma è un grande mercato. Stiamo parlando di grattacieli, dietro i grattacieli ci sono anche i negozi, c'è il mercato, c'è una grande economia in sviluppo. Oggi stesso ho sentito che c'erano le stime del PIL cinese, che sembra che ci sia una stima del 9.9, e si lamentavano, no? Non sto a dire che cosa è la situazione in Italia, in Europa, che penso che la conosciamo. Vogliamo sapere tutto di questo tuo incontro, Saro. Purtroppo ci dobbiamo lasciare, il programma sta finendo. Tra l'altro puoi ascoltare in diretta dalla voce di Emiliano alcune ultimissime fulmine. Beh, intanto ricordiamo, insomma, per restare sempre in Cina, ieri c'è stato il Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, con tanto una bella scritta che campeggiava nella curva, credo, principale, certo, del circuito, certo. Expo 2010. Insomma, ci hanno avvertito il mondo visione che l'Olimpiade di Shanghai è quella, insomma, ormai tra un anno e mezzo, poco più. Poi c'è una storia tragica che però si sta colorando di contorni da feuilleton, che sta conquistando pagine sui giornali, perché c'è un disoccupato di 28 anni cinese che è stato condannato a morte per aver assassinato 6 poliziotti. E fin qui siamo purtroppo nella norma, bella, un po', giusto, di quello che succede in Cina. Ieri è stata confermata la sentenza della Corte d'Appello di Shanghai. Però questo giovane è diventato una sorta di idolo per il popolo dei blog e anche dei giornali cinesi, che di solito sono implacabili quando si tratta di pena di morte. Cos'è successo? Tutto risale al 1 luglio, quando il giovane, nulla facente di Pechino, lanciò 3 bottiglie Molotov dentro al commissariato di polizia. Entrando dentro ha fatto fuori questi 6 poliziotti, il tutto perché era stato ingiustamente picchiato a sangue poche settimane prima ed era anche diventato impotente. Questo ha scatenato la follia, l'amore nei suoi confronti dei blogger cinesi, che vogliono invece che venga assolto, e quindi insomma l'hanno ribattezzato come uno degli eroi della leggenda, del mito cinese del passato. Seguiremo anche queste peripezie di questo strano personaggio che ci ha raccontato Emiliano Enrico, che è qui al mio fianco. Io sono Stefano Pistolini, a Shanghai c'è Saro Capozzoli, che immagino vi saluti a tutti insieme a noi. La parte tecnica a Milano Fabio Cantadori, a Roma Alessandro Chiappini, la mail jeffersonming@radio24.it, gli appuntamenti stasera alle 9 la replica, domani alle 4 la diretta, il tutto insieme, il pacchetto su Radio 24. We'll be right back. 是你们想象，无所谓真假，社会本来就是这样，被误会又怎样，被相信又怎样，玩不起这游戏的人就请靠边站。狗狗嗅觉非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲，黑白分辨不清，观众也就跟着相信。最重要的是对得起自己，不变的道理，高手过招，戴着面具谁能活得动静相应。我回家去打坐取舍，生养性沉默的人最聪明，不做无聊的回应。